A bordo campo di Dario Ricci. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Nel 2006 vince la Coppa Italia, nel 2007 raggiunge le semifinali Scudetto. Questa è la parabola straordinaria del basket Napoli prima della caduta. Gli appassionati se lo ricorderanno. Il 12 gennaio 2010 la società, allora diretta da Mario Maione, dichiara fallimento. In precedenza c'era stato un campionato di fatto giocato con i ragazzini, una delle pagine più brutte, inutile negarlo, del basket italiano. Dal giugno 2011 però Napoli ritorna a sognare basket, insomma all'ombra del Vesuvio il cuore non batte solamente per Cavani e compagni, con una società tutta nuova, con obiettivi tutti nuovi, in un campionato, quello di divisione nazionale A, il terzo torneo italiano, che insomma ha tanti elementi interessanti che oggi raccontiamo qui a bordo campo. Nostro ospite, primo dei nostri due ospiti, il presidente del nuovo Basket Napoli, Salvatore Calise. Benvenuto presidente a bordo campo e a Radio 24. Grazie Dario, io riconfermo che sono un tuo grande ascoltatore e quindi è una cosa strana perché poi faccio radio, faccio questo lavoro ed è la prima volta in realtà che mi capita in 35 anni di onorata carriera di come dire, essere intervistato da qualcuno che ascolto e molto volentieri, complimenti veramente. Troppo buono presidente, troppo buono Salvatore, beh però entriamo subito sul parquet. Come è rinato il basket a Napoli dopo quella sfortunata parentesi, veramente difficile raccontare la fine di quella storia, ma si è ripartiti alla grande con un progetto che mi fa pensare un po' all'azionariato popolare, eh? So che ti sei inventato un progetto tutto nuovo, raccontaci. Allora, io del grande basket napoletano ho avuto la fortuna di essere la voce per molto tempo, perché l'ho raccontato fin dai tempi della RAI, in epoca quindi molto remota, poi tornato a Napoli e quindi impegnato nelle emittenti napoletane, abbiamo raccontato quelle belle pagine indimenticabili, quindi gioito insieme ai tifosi. Io sono sempre stato considerato dai tifosi di Napoli un tifoso accreditato con microfono, questo sono ancora, nel senso che la mattina faccio ancora i miei programmi, ormai non posso naturalmente più fare la Rirona che sarebbe terrificante farle. Ma insomma va benissimo così. Esattamente nel dicembre dello scorso anno, dopo l'ultima scomparsa, cronologicamente l'ultimo tentativo napoletano, ci siamo messi all'opera con alcuni amici e abbiamo escogitato questa formula che ha chiamato a raccolta almeno 1000 tifosi napoletani disposti a firmare in bianco l'impegno di venire al Palla Barbuto qualora fossi riuscito a creare una società naturalmente supportata da sponsor. Sono quattro amici al bar che sono partiti, in realtà eravamo sei perché due non sono entrati nella compagine sociale, ma sono l'attuale direttore sportivo che è Antonio Ambrosino, il segretario generale che è Giuseppe Cacciapoti, e poi insieme ad Antonio Midopoli, Luciano Codana che è un uomo appassionatissimo di sport, è quello che ha riportato in auge la Capri Napoli, quindi grande esperto di avvenimenti sportivi, un avvocato storicamente appassionato di basket e Paolo Calcagni. Ci siamo seduti e ci siamo messi a lavorare e abbiamo trovato sponsor che ci hanno permesso di cogliere questo varco e partecipare al campionato di DNA. Ecco presidente, so che tra l'altro i tifosi hanno anche un ruolo attivo di controllo e di gestione nella nuova società, vero? No, non solo loro, sia i tifosi che sono 1000, fanno parte di questo club dei tifosi che ha ricevuto non soltanto l'abbonamento per venire a vedere le partite in una tribuna che è dedicata, ma tutta una serie di benefit da parte degli altri sponsor, fanno veramente una bella associazione, si aiutano tra di loro, sai magari ci sono all'interno dell'associazione di questo club dei commercianti, quindi favoriscono sconti tra di loro, insomma è veramente una bella cosa, hanno espresso un presidente di questo club che è entrato nel direttivo, così come pure nel direttivo è entrato un rappresentante degli sponsor, quindi sponsor e tifosi insieme ad altri tre elementi a formare un direttivo di 5 persone che ha effettivamente la possibilità di suggerire alla società le cose da fare, che è quello che sta accadendo, ed è una cosa molto importante, anche molto bella, indubbiamente questo sì, io ritengo che sia innovativo, perché metterli sotto forma di azionariato popolare probabilmente sarebbe stato veramente complicato da organizzare. Ecco, tra l'altro vale la pena sottolineare che la divisione nazionale A, pur essendo il terzo torneo italiano, non è che costa proprio 2 euro, no? Insomma, la stagione su per giù quanto vi costa e quanto ammonta lo sforzo economico che state supportando? Guarda, più o meno credo che ci costerà da tanto, intorno ai 700.000, 600.000, non si sa, dipende da quante trasferte e come riusciremo a organizzarle nel miglior modo possibile, perché noi andiamo dalla Sicilia al nord, è un bellissimo campionato dove la formula richiama veramente tanto quella dell'NBA, quindi noi ci scontriamo con le squadre della nostra metà Italia andata e ritorno e con l'altra metà Italia solo andata, per capirci, a sorteggio, per cui veramente dipende da questo, ma insomma, poi speriamo che ci costi di più, perché significherebbe essere andati dove noi sogniamo di andare, quindi anche diciamo a partecipare all'ultima parte del campionato, quella che conta poi alla fine, anche se per Napoli noi abbiamo sempre detto la cosa che contava di più quest'anno era fare un campionato normale, e cioè arrivare alla fine, insomma possiamo garantirlo da tempo, e quello di onorare tutti quanti i nostri impegni economici. Quelli sportivi, per fortuna, ho trovato un bel compagnuccio, li stanno dando alla grande, perché abbiamo chiamato Maurizio Bartocci, che tutti gli appassionati di basket che lo conoscano, e che appunto è stato uno dei protagonisti di quelle belle pagine che tu dicevi all'inizio del nostro incontro. Infatti Presidente, l'obiettivo è che la stagione costi ancora di più, perché vorrebbe anche dire che ci sarebbero dei premi, magari promozione da pagare. Allora sentiamolo subito il coach. Eccolo qua Maurizio, te lo passo e ancora complimenti, un abbraccio Dario, eccolo qua. Grazie. Pronto, buonasera. Buonasera, eccolo qua il coach della nuova società sportiva Basket Napoli, Maurizio Bartocci. Beh, allora coach, abbiamo parlato un po' con il presidente di quella che è la nuova struttura societaria di Napoli, ma c'è soprattutto una squadra tutta nuova che sta facendo molto bene in campionato. Ci spieghi un po' quali sono i protagonisti e anche un po' la filosofia di gioco di questo Napoli Basket. Diciamo che siamo partiti praticamente da zero, da inventarci tutto, da un giorno dei primi di luglio. Abbiamo puntato su un gruppo di ragazzi che avessero esperienza e soprattutto che avessero voglia di venire a confrontarsi in una realtà importante come quella di Napoli. Abbiamo preso un gruppo di ragazzi che stanno veramente dando grande energia a questo progetto, supportati secondo le regole che ci prevedono 5 under, quindi 5 ragazzi giovani che devono giocare in questo campionato, 5 under che insieme stiamo facendo un gruppo che è il vero segreto poi di questi risultati. Avere una squadra che sta bene insieme, che si diverte a stare insieme, alla fine fa diventare tutto più facile, tutto più positivo. La squadra che gioca con grande energia, che lotta sempre su ogni pallone, magari non ha il talento e la forza tecnica di tante altre squadre che appartengono a questo campionato, però sicuramente come energia, come voglia di lottare e di combattere, penso che siamo davvero ai primi posti. Coach, direi campionato di divisione nazionale A, che è un campionato di ottimo livello dal punto di vista tecnico-tattico e soprattutto può essere forse il giardino per quei talenti che invece a livelli più alti fanno parecchia fatica a trovare minuti pesanti sul parquet, no? Sì, sicuramente queste regole fanno sì che ci siano questi ragazzi che debbano stare in campo e debbano giocare e debbano anche avere la possibilità di poter sbagliare, perché poi la vera possibilità di poter migliorare è andare in campo e avere il diritto di poter sbagliare, cosa che molte volte a livelli superiori non viene concesso, perché chiaramente il risultato è importante, perché ci sono giocatori importanti, allora alla fine sui giovani ci si punta davvero poco. E questo è il segreto di questo campionato. È chiaro che è il primo anno che ha questo tipo di costruzione, adesso piano piano bisognerà assestarsi, ma credo che poi l'idea di far giocare questi ragazzi sia l'unica idea reale importante per assicurare una continuità al nostro sport. Immagino che il pensiero sia quello di raggiungere presto Avellino e Caserta in Serie A, che in questo momento sono le maggiori ambasciatrici della campagna nel basket di alto livello italiano, no? Vuol lanciare un messaggio di sfida? Ma sicuramente, poi qui c'è sempre una grandissima rivalità, soprattutto tra Napoli e Caserta, una rivalità storica che dura da sempre praticamente, quindi è una cosa sentita, e non nascondo che i tifosi vivono questo progetto nella speranza di riportare e ricreare questo famoso derby Napoli-Caserta. È sicuramente una piazza ambiziosa, con un presidente vulcanico, come avete avuto modo di sentire poco fa, con la grande energia e con grandi idee, e quindi è una società che vuole crescere, vuole puntare in alto. noi un passo alla volta cercheremo di fare sempre il nostro meglio, però la possibilità di poter ritornare ad altissimo livello è un sogno che speriamo diventi realtà a brevissimo. Anche perché sarebbe l'occasione per Maurizio Bartocci di questo derby del cuore, visto che lui è stato anche assistente di Marcelletti a Caserta in quello storico scudetto del 1991, ma questa è un'altra storia, poi la riracconteremo a bordo campo. Coach, allora intanto grazie per la disponibilità, un in bocca al lupo. Beh, cioè, avete trovato già un detto, un motto napoletano che contro la mala sorte o che magari di buon augurio per questo campionato? Ma c'hanno un paio di urli, ragazzi. Poi la cosa divertente è che abbiamo alcuni giocatori che si divertono molto nella napoletanità, a partire da Musso, a Iannilli, che sta cercando di imparare quanto più è possibile proprio le espressioni dialettali. Non c'è una frase in particolare, ma sicuramente loro ne sentono e le ripetono in continuazione anche durante l'allenamento. Poi, siccome io ho questa cadenza un po' napoletana, allora anche loro ridono quando io li prendo in giro usando questi detti qui. Senta, Cavani e compagni sono già venuti al palazzetto a vedervi, o magari è pure possibile ipotizzare qualche collaborazione col Napoli Calcio in futuro? Ma al momento non si è mai creata l'occasione, anche perché con gli orari e con i tempi non sempre ci si è trovati con la possibilità, nel senso che chiaramente con gli anticipi e posticipi del calcio è una cosa possibile, però credo che comunque l'idea di stare vicino e di avvicinarci, adesso noi siamo piccoli, quindi chiaramente il Napoli Calcio non è che ci veda tantissimo, però chiaramente aumentando la qualità del nostro risultato, dei nostri risultati, aumentando il nostro livello, credo che qualcosa in più tra le due società si potrà fare. Beh, allora insomma, magari a giugno si può festeggiare insieme qualcosa di bello. Gli scongiuri li lascio tutti a lei. Grazie a Maurizio Bartocci e al presidente del Napoli Basketball Salvatore Calise per essere stati nostri ospiti oggi a bordo campo. Grazie a voi e buona serata. A bordo campo. L'educazione sfida lo sport tra alleanze, sguardi profetici e segni di speranza. Questo il tema impegnativo del Forum di Assisi, appuntamento tradizionale nella storia del centro sportivo italiano, ma direi anche dello sport e della cultura sportiva italiana. E proprio di questo appuntamento parliamo oggi a bordo campo con un altrettanto tradizionale amico di Radio 24 e di A Bordo Campo, il presidente del centro sportivo italiano, Massimo Achini. Benvenuto presidente. Grazie, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Presidente, direi tema quanto mai impegnativo quest'anno, quello che andrete ad affrontare ad Assisi nell'incontro annuale del CSI. Come è maturata questa scelta e perché? Beh, intanto mi piace dire, indubbiamente è un tema impegnativo, anche molto affascinante. Dicevo, però mi piace dire che ogni anno gli amici del centro sportivo italiano si fanno un bel regalo. Spesso di fronte ai grandi problemi dello sport, in particolare per esempio del calcio, penso al calcio scommesse, penso al problema di avvocati, non avvocati, scudetti, come dire, assegnati, non assegnati, si dice spessissimo che il problema, che alla base c'è un problema di cultura sportiva. Bene, una volta all'anno ci piace regalarci un intero weekend nel quale ragionare proprio, come dire, andando alle radici delle potenzialità dello sport. Ogni anno scegliamo un tema interessante, quest'anno una partita, all'inizio sembra così, l'educazione sfida lo sport, sembra un bel match, non è così, la frase completa è l'educazione sfida lo sport a dare il meglio di se stesso, perché lo sport è uno straordinario strumento educativo. Oggi la società del nostro tempo ha tra i più grandi problemi che deve affrontare quello di educare i ragazzi e i giovani, ed ecco allora che viene naturale chiedersi come davvero lo sport può esprimere tutte le potenzialità educative che contiene. Questa sarà un po' la grande domanda, o meglio il filo rosso di queste giornate molto intense, impegnative, ma anche belle ed affascinanti, che vivremo adesso. Ecco, tanti relatori che parteciperanno ai lavori, alle varie tavole rotonde, alcuni sollecitano temi di grande attualità, ad esempio la presenza di Don Mario Lucek, il direttore dell'Ufficio Sport e Turismo della CEI, che è anche, diciamo, il religioso che ormai accompagna abitualmente le spedizioni olimpiche azzurre. Ecco, in vista di Londra 2012, le chiedo, Presidente, il tema del dialogo interreligioso, come verrà approcciato e soprattutto quanto peserà in questi Giochi Olimpici, sempre più condizionati anche dal business e dalla politica? Possono essere veramente un'occasione di incontro anche sotto questo profilo? Beh, credo proprio di sì, sono una grande, straordinaria occasione. Credo che anche sullo scenario mondiale, sui grandi temi del nostro tempo, come quello del dialogo interreligioso, lo sport sia chiamato oggi a dare il meglio di se stesso. Anche noi abbiamo vissuto recentemente, penso all'iniziativa che realizziamo tutti gli anni in Terra Santa, un'iniziativa unica con una camminata non competitiva da Betlemme a Gerusalemme, passando attraverso il checkpoint con ragazzi italiani, israeliani e palestinesi tutti insieme. Siamo arrivati all'ottava edizione di questo appuntamento, anche quell'esperienza in Terra Santa, in una terra complessa come quella, testimonia quanto lo sport può fare per la pace, per il dialogo interreligioso e per accorciare le distanze tra le persone, tra i popoli, tra le nazioni. Non a caso ad Assisi sarà ospite tra i relatori anche Jibril Rajoub, il presidente del Comitato Olimpico Palestinese. Obiettivo ambizioso quello del CIO a 40 anni dalla strage, dalla tragedia di Monaco 1972, quello di aver definito una vera e propria roadmap attraverso cui riavvicinare Israele e Palestina sotto il grande ombrello dei cinque cerchi olimpici. Crede che in questa prospettiva Londra 2012 possa ricucire in qualche modo quella ferita? Beh, io credo che quantomeno ci debba provare. Il percorso è complesso, si tratta di fare piccolissimi passi avanti. Mi sembra molto bello l'impegno e la determinazione del CIO. Pescante è un rappresentante straordinario di impegno, di dedizione, di grande lungimiranza diplomatica in questa direzione. E poi ci sono piccoli segni che si sviluppano proprio in queste settimane intorno a quel luogo straordinariamente simbolico che è Assisi. Recentemente c'è stata la partita tra la rappresentativa della Lega Pro e la rappresentativa palestinese, era il match di ritorno di una partita giocata in Palestina davanti a 30.000 spettatori. Ad Assisi, come dicevamo, la presenza del presidente del CONI palestinese, sono tutti piccoli segni che vogliono, come dire, dare un piccolissimo contributo a quell'impegno del CIO verso appunto questo grande traguardo che credo valga di più di ogni vittoria sportiva. L'incontro di Assisi, il forum, sarà anche l'occasione per fare un check-up, tastare un po' il polso della situazione di quello che è una delle grandi culle dello sport italiano, l'oratorio. Ecco, da questo punto di vista, Presidente, qual è lo stato di salute dei nostri oratori e sono effettivamente, svolgono ancora questo ruolo di formazione non solo degli atleti ma anche e in particolare degli sportivi, soprattutto giovanissimi? L'oratorio sta bene, è ancora un grandissimo patrimonio educativo e un grandissimo presidio sul territorio in tutto il paese. Indubbiamente gli oratori, e sono tantissimi, che hanno al loro interno la società sportiva, sono oratori che hanno una marcia in più. L'oratorio secondo noi sarà grande protagonista, o meglio è grande protagonista del presente, ma sarà anche grande protagonista del futuro. È bello vedere come ancora una volta anche ad Assisi ci sono tantissimi ospiti, dal segretario generale del CONI Pagnozzi, e tutti in qualche modo hanno iniziato a giocare in oratorio. Fino a qualche decennio fa era così. Noi crediamo che sia possibile oggi rilanciare l'impegno educativo dello sport in oratorio come uno degli asset straordinariamente importanti del sistema sportivo italiano. In quell'educazione sfida lo sport, l'oratorio è chiamato a giocare un ruolo da centravanti, diciamo così, mettendosi a servizio di tutte le agenzie educative. Il tema delle alleanze per noi è molto importante, ma sicuramente un ruolo da protagonista che gli impone di sviluppare tutte le potenzialità che lo sport in oratorio oggi contiene. Ecco, in questa prospettiva che valore ha la presenza proprio del segretario generale del CONI Pagnozzi? Quali sono i progetti allo studio, immagino a braccetto col CONI, che da Assisi prenderanno il via? Beh, intanto noi dobbiamo ringraziare il segretario Pagnozzi e il presidente Petrucci perché da sempre hanno testimoniato una grande vicinanza al centro sportivo italiano e soprattutto un'attenzione e una passione educativa veramente esemplari. La presenza di Pagnozzi ad Assisi poi è doppiamente importante proprio perché vorremmo ragionare insieme a lui intanto sullo sviluppo dello sport per tutti in questo paese. Si è parlato molto recentemente dell'autoriforma del CONI, forse una cosa che non è stata detta con grande rilevanza è che nei grandi obiettivi strategici di quell'autoriforma c'è lo sviluppo dello sport per tutti, meglio l'aumento della pratica sportiva in questo paese, e questo è indice di civiltà del nostro paese, per cui vorremmo ragionare con Pagnozzi su quali percorsi concreti per sviluppare di più la pratica sportiva nelle periferie, negli oratori, nei piccoli gruppetti sportivi di quartiere e di paese, insomma laddove lo sport può esprimere veramente le sue potenzialità educative. E poi anche progetti significativi, pensando anche a una presenza bella dell'educazione all'interno delle Olimpiadi di Londra. Anche su questo ci piacerebbe immaginare un'iniziativa nuova, creativa, che possa dentro questo meraviglioso scenario mondiale, ecco, ricordare l'importanza dello sport come strumento educativo. Buon lavoro quindi al Centro Sportivo Italiano per il Forum di Assisi, vi ricordo a partire dal 9 dicembre. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Pietro Lacorte in regia, vi ricordo che potete scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it, riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog del programma sempre sulla nostra pagina web. L'appuntamento è per domenica prossima come sempre alle 14.30 ed in replica il sabato mattina alle 6.30. Un saluto da Dario Ricci.